Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Finalmente, in questo nostro viaggio nella Basilica di San Pietro, entriamo nella grande basilica. È naturalmente una gigantesca emozione perché la basilica ha delle dimensioni sovrumane. È lunga 180 metri, ha 20.000 metri quadri calpestabili, quindi siamo in uno spazio molto molto vasto. E abbiamo visto per televisione il Papa che ha spinto e aperto la Porta Santa. Ecco, la porta che il Papa ha aperto si trova alla destra della facciata della basilica, sotto il portico. È una porta moderna che è stata realizzata negli anni 70 e che appunto viene utilizzata solo per gli anni santi, per varcare gli anni santi. La porta però più interessante dal punto di vista della basilica è quella centrale, che è quasi sempre chiusa naturalmente, che è stata realizzata, le ante di bronzo sono state realizzate per l'antica basilica costantiniana. Questo è un pezzo della basilica che è stato recuperato e venne realizzata ai principi del 1400 sotto Papa Eugenio IV da niente meno che il Filarete, uno dei più grandi scultori e architetti del primo Rinascimento. Beh, entrando, il nostro occhio è attratto naturalmente dal baldacchino di San Pietro, che è un capolavoro assoluto di Gian Lorenzo Bernini, il quale, per procurarsi il bronzo per realizzare questo monumento, praticamente depredò il tetto del Pantheon. Da lì viene il detto che quello che non hanno fatto i barbari, hanno fatto i barberini, cioè la famiglia del Papa regnante in quel momento. Gian Lorenzo Bernini immagina una struttura, diciamo così, effimera, come se fosse il baldacchino di una processione, che viene portato e si ferma proprio nel punto dove c'è l'antico altare papale che era stato consacrato alla fine del 1500 e che in linea sotterranea si trova esattamente sul punto che la tradizione vuole essere il luogo dove è stato sepolto San Pietro. Quindi questo altare è uno dei gioielli dell'arte barocca, anche se non è perfettamente in linea con la cupola sovrastante che è stata costruita da Michelangelo. In fondo alla basilica c'è un oggetto clamoroso, la cosiddetta cattedra di San Pietro. È un oggetto sovrammisurato, nel senso che si tratta semplicemente di un reliquiario, quindi è come se fosse un'oreficeria portata a dimensioni straordinarie per conservare una sedia, cioè la cattedra di San Pietro, una sedia tra l'altro medievale, non si tratta certamente di un originale, ma che venne appunto durante l'età barocca enfatizzata, perché naturalmente durante l'età barocca il papato usa le arti e usa Gian Lorenzo Bernini e tutti i grandi artisti per affermare un primato che la riforma protestante aveva un poco intaccato.